Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E buona domenica. Aia! Ah, mi ha morso una vipera. Ah, partiamo subito così stamattina? Eh beh, insomma, ormai è primavera inoltrata, ci scrivono cosa possiamo fare per le zecche, le pulci, la lesmagna, la filariosi e le vipere. Le vipere, che io ho il terrore delle vipere, ecco. Come si fa se c'è un antidoto? E quindi chi vediamo di tranquillizzare la Celentano, va? Sì, non solo. Se no non fa le passeggiate, d'inverno perché fa freddo, d'estate perché ci sono le vipere, e quindi sai che lungo l'Adda è pieno di gente che è morta nei cimiteri per le vipere, Ma siamo come partito simpaticone stamattina, Alvaira. Chi so, potevamo chiamare? Chi è che ci poteva togliere ogni dubbio che io chiamo in pieno agosto mentre sono in passeggiata? Per chiedere, per chiedere aiuto. Ecco noi, Barbara Gallicchio. Barbara. Ciao. Come Ciao, stai? Carissima. Bene, voi? Bene, grazie. Senti, qui ci scrivono mail di come si fa a avere i cani senza le pulci, per le zecche. Io poi sono terrorizzata dalle processionarie, anche le vipere, perché questi sono un po', diventa un po' il problema di stagione, no? Eh sì, però ci sono cose che possiamo evitare, tipo le pulci e le zecche. Mm. Le zecche magari non al 100%, perché sono bestie che hanno 400 milioni di anni, quindi sono molto resistenti. Ammazza. Bisognerebbe imparare da loro come si fa a sopravvivere. Parlando, mi sa che succhiano il sangue, quindi forse probabilmente è quello il segreto. Il problema è che succhiano il sangue, ma mentre succhiano il sangue inoculano parassiti. Che e quindi, come anche le zanzare, no? Come anche, insomma, in generale gli insetti, per le zecche non sono insetti, sono artropodi. Però insomma il concetto è quello, mentre succhiano loro hanno dei cicli complicatissimi questi parassiti in cui il cane o anche altri animali, anche l'uomo per esempio ha delle malattie da zecche, la malattia di Lyme, la borreliosi per esempio, ce l'hanno sia i cani che le persone. Infatti. E questi parassiti hanno un ciclo obbligato molto complicato che passa attraverso obbligatoriamente anche l'insetto. O l'insetto, l'aracne, quello che è, no? E quindi la zecca è proprio un ospite obbligato e il cane ha diverse di queste malattie che prende dalle zecche, che sono tutte gravi. Sono parassiti del sangue prevalentemente, come le babesie per esempio, che possono uccidere un cane in una settimana. Mamma mia. Ma scusa, ma in questo caso però deve esserci una zecca particolarmente infetta o a prescindere? Sì, no, ci vuole la zecca infetta. Ci vuole la zecca infetta, però non è così impossibile insomma trovarle queste zecche infette. Sono sempre le femmine. Ma quindi vedi, sempre le femmine, capito Rosita? Certo. Comunque, a parte questo, ma come facciamo allora a proteggerci? Perché oggi poi c'è anche questa nuova opzione dei rimedi naturali, no? L'olio di neem, il collare alla citronella, queste robe qui. Ma te che ne pensi? Sulle zecche penso che quelle gli fanno giusto una vitamina. Ecco, quindi per tenere lontane le zecche bisogna? Lì bisogna proprio prendere prodotti specifici con repellenti per le zecche, tipo le pipette o anche i collari, collari, ma il collare ma non gli fa no, quel collare non, il collare non gli dà fastidio? Allora il problema del collare, Rosita, è che tutti questi antiparassitari, se tu vai a vedere l'autorizzazione che hanno preso dall'ente internazionale per la registrazione dei farmaci, c'è sempre una frase che dice: si è valutato che i benefici sono superiori ai rischi. In tutti questi prodotti, capito? Quindi uno deve capire che purtroppo cerchiamo di non intossicare gli animali, però bisogna proteggerli da malattie pericolosissime come le babesie, per esempio, o le altre che poi citeremo. Quindi bisogna un po' barcamenarsi. Se sei in una situazione ad alto rischio, bisogna divenire a un compromesso e usare prodotti che sono proprio prodotti pesanti, magari anche per l'animale. Se io ho più cani che giocano fra di loro, giovani, cuccioli, che si mordono sul collo, il collare proprio non lo posso usare, perché se si mangiano il collare di gomma, che per il cane cucciolo è un gioco, muore. Ecco. È probabile che succedano delle cose tremende, cioè sono molto molto pericolosi, soprattutto quando sono nuovi, appena aperti. che possono che sono pieni di quella polverina, fra l'altro, che sono ricchissimi della sostanza che è proprio un antiparassitario, che non è da ingerire, capito? Deve stare sul pelo, no? Quindi, meglio la pipetta, per dire, sulle scapole? Con i cuccioli sì, non si può, soprattutto se ne ho più di uno, che stanno sempre insieme, stanno sempre lì a ciucciarsi l'un l'altro, proprio non si può fare. Poi molti di questi prodotti sono tossici per i gatti. I gatti sono particolarmente sensibili, quindi se io metto il collare sul gatto e il gatto mi lecca il cane, perché è un gatto particolarmente socievole, socializzato con i cani, me lo lecca tutto, il gatto si intossica. Senti, io ti dico che cosa faccio io. Gli metto la pipetta, che però, stando molto in campagna, stando fuori, per esempio, le pulci le prendono facilmente. E poi vado ad aiutare, per esempio, con le zanzare, a parte dargli la pasticca contro la filaria, perché qui in zona Milano è la filaria, poi a seconda delle zone d'Italia c'è la filaria. Ormai la filaria la devono prendere praticamente dappertutto, per fortuna. La leishmaniosi no? La leishmaniosi non è, per fortuna, diffusa dappertutto, però sono due mondi diversi, perché la filaria ha un prodotto, una serie di prodotti che sono efficacissimi, sì. Per cui se tu gli dai regolarmente la compressa o metti le pipette o fai l'iniezione, quello che è, il cane non se la prende la malattia, anche se vive in zona ad alto rischio e anche se viene esposto, diciamo, perché magari dorme all'aperto, non se la prende. Certo, lo posso proteggere con prodotti insetto repellenti, cercando di evitare che venga appunto tantissimo in generale, ecco, perché è meglio se non... Ecco, perché io faccio anche quello, io prendo gli spray antizanzare, quelli per i bambini o quelli naturali, me li spruzzo sulle mani e poi li accarezzo esatto, e noi facciamo così, infatti, ci evitiamo di avere questo tipo di aggressioni, soprattutto se uno vive in zona ad alto rischio, insomma, un po' di protezione va bene. Però il concetto è che la filaria, il cane che prende la profilassi, non se la prende. Cioè la malattia non gli viene, le compresse, quello che qualunque usiamo, cosa siano, sono lì molto efficaci, quindi uccidono le larve delle filarie prima che arrivino nel cuore e quindi la malattia non si sviluppa. Invece con la leishmaniosi abbiamo tutto un altro tipo di problema, perché non abbiamo una soluzione radicale che ci permette di dire ecco, questo cane qui non si ammala. No, non c'è questa condizione. Prima di tutto perché, come è noto, le zanzare, se sei in una zona ad alto rischio, alla fine qualcuno ti punge. E queste che trasmettono la leishmaniosi sono pappataci, che sono zanzare piccolissime. Sono talmente piccole che possono passare certe zanzariere, se le zanzariere non sono abbastanza fitte. O addirittura c'è chi consiglia di trattare la zanzariera con un antiparassitario in modo da renderla repellente, no? Perché poi se io uso dei prodotti che uccidono questi insetti dopo che mi hanno punto il cane, ok, l'insetto è morto, io abbatto il numero di insetti nell'ambiente, però intanto il cane è stato punto. Quindi l'effetto insetticida è importante, ma è molto più importante dal punto di vista del cane l'insetto repellenza, che impedisce agli insetti di andare su quel cane lì. Eh sì. Quindi certo, il nostro scopo sarebbe avere dell'insetto repellente. Quindi non c'è... una volta che sono stati colpiti, dopo abbiamo un problema nell'ospite. Ecco. E cioè come reagirà il cane che è venuto a contatto con le leishmanie? Ecco, fermati su questa domanda che facciamo un piccolo break e riprendiamo subito dopo con te, così ce lo spieghi. A fra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Eccoci qua, stavamo parlando con la veterinaria Barbara Gallicchio di tutti questi problemi di stagione, come la leishmania, le zecche, le pulci, la filaria, vipere, processionari. Stavamo chiudendo il discorso per quanto riguardava la leishmania. Ma posso fare una domanda prima, Barbara? Barbara, come si fa ad allontanare la zanzara? No, scusami, c'è Rosita che insomma è un po'... non è una domanda pertinente, cioè, stiamo parlando proprio di queste cose. Va bene. Allora, Io sono contro la violenza, ma ci sono zanzare che andrebbero acciaccate con la ciacca mosche. Col fucile, detto col ciò, fucile. No, col fucile no, troppo spreco. Vabbè, Barbara, quindi dicevamo della leishmania. Dicevamo che se il cane viene portato in zona dove c'è l'endemismo, cioè dove ci sono i pappataci infetti, anche lì sempre le femmine, nelle quali è obbligatorio il ciclo, quindi senza papatacci non c'è contagio, per cui tra due cani, uno positivo e uno negativo, non c'è contagio. Mm-hmm. Tra i cani e le persone, che sapete anche le persone possono prendere leishmaniosi, non c'è contagio, quindi il cane è un serbatoio della, diciamo, dell'ecosistema, quindi purtroppo i cani infetti possono infettare nuovi papatacci e questi nuovi papatacci potrebbero dopo le loro figlie infettare anche le persone, quindi per questo motivo la leishmaniosi è considerata una zoonosi, una sorta di malattia che può essere trasmessa dagli animali all'uomo, non perché ci sia il contagio diretto, quindi chi ha il cane infetto in casa sa benissimo che non corre rischi di per sé. Però è comunque un problema dell'ambiente, no? Con il riscaldamento globale gli insetti succhiatori non diminuiranno di sicuro, anzi presumibilmente aumenteranno sempre di più, e quindi mentre prima era una malattia del bacino stretto del Mediterraneo e della fascia tropicale del pianeta, che so, Brasile, India, quelle parti proprio caldissime, adesso purtroppo abbiamo la leishmaniosi anche in cani residenti a Torino. Eccoci. Ma per la leishmaniosi, una volta che è stata presa, che un cane la contrae la malattia, si possono salvare o no? Si possono salvare, ma non si possono guarire. Nel senso, quindi rimangono malati cronici? Rimangono portatori di questi protozoi addosso, i quali i protozoi entrano in una fase quiescente, non aggressiva, se tutto va bene. Se tutto va bene e il cane risponde bene alla terapia, perché non è sempre detto che sia così, ci sono cani che non rispondono affatto, cani che non sopportano la terapia, la devi interrompere e finiscono per morire di malattia della leishmaniosi, diciamo così, e poi ci sono cani che sono proprio refrattari, cioè vivono nello stesso ambiente e non si ammalano mai, non, è come se non venissero punti dagli insetti, e forse è proprio quello il fatto. Circa un terzo dei cani non ha nessun segnale di aver mai avuto contatto con il parassita. Un terzo dei cani circa si difende da solo, quindi sviluppa questa immunità cellulo-mediata che combatte le leishmanie, hanno un bassissimo titolo di anticorpi che segnala che sono venuti in contatto. E invece un terzo dei cani, purtroppo, anche se sono giovani, sono sani, non sono depressi per nessun motivo, invece subiscono l'invasione di questo parassita, non riescono a difendersi con l'immunità cellulo-mediata, producono una enorme quantità di anticorpi circolanti che non solo non li aiutano, ma addirittura sono con causa della morte, perché parte della malattia da immunocomplessi. Quindi questo è il problema. Chi è il cane che viene infettato? Perché certi cani se la cavano senza problemi, altri invece soccombono, no? Senti, bene, io che sono una fifona tremenda apprensiva, pensa come passo appena vedo una zanzara. Io farei una ricapitolazione di tutto quello che possiamo adesso fare. Adesso aspetta, prima della prima della ricapitolazione, ho bisogno di capire, processionarie e vipere sono letali per i cani piccoli? Sì, ma la processionaria è veramente terribile anche per i cani grandi, per esempio se la ingeriscono, cane molto veloce che la manda giù può avere delle causticazioni veramente terribili, gravissime, e non c'è un vero prodotto che noi possiamo usare per le processionarie, bisogna chiamarla disinfestazione e far togliere i nidi, che di solito sono in alto, sotto i copi dei tetti, sugli alberi, eccetera, e queste qua proprio sono molto pericolose effettivamente, non certo quanto le vipere, perché la vipera purtroppo se il cane è piccolo il cane muore. Ecco. Cioè se un cane di 10 kg, 15 kg con un morso di vipera che ha le sacche di veleno piene muore. Non c'è niente da fare. No, perché la dose di veleno è come per noi, no? Cioè una persona adulta pesa 50-60 kg, una dose di veleno lo farà stare malissimo, ma è difficile che lo uccida. E lo stesso vale per i cani, se il cane è grosso, se è un cagnone, magari lo assorbe, oppure se la vipera ha usato il veleno da poco e quindi le sacche non sono tanto piene, quindi diciamo un po' scarica, magari ce la fa anche un cane di media taglia, ma se la vipera è piena di veleno il cane muore. Bene, detto ciò, andare di costa a un pronto soccorso e fare tutte le terapie di sostegno, di supporto per lo shock, per l'infezione, perché i serpenti non hanno solo il veleno, hanno una bocca che è spaventosamente infetta di batteri terribili che con i denti inoculano in profondità nei muscoli. E quindi si creano delle infezioni spaventose che sono tra l'altro con causa dello shock settico che si verifica anche a seguito del veleno. Ci vogliono delle particolari terapie con delle sostanze che possono un po' aiutare a compensare il problema del veleno, ma insomma lì si tratta veramente di essere fortunati, perché se tu ti muore la vipera e tu sei in montagna e sei a mezz'ora, 40 minuti, un'ora dalla macchina, ora che ci arrivi col cane in braccio, no, perché certo, lo fai camminare e il sangue circola più in fretta, mamma mia. No, vabbè. Detto ciò, i miei cani passeggeranno solamente nel giardino di mio padre. Senti, scusami Barbara, ricapitolando. Una volta al mese possono scorazzare, dai. Certo. Vabbè, c'è di buono che le vipere sono molto timide. Timide? Sì. Le vipere sono timide, quindi non vogliono aggredire assolutamente. Se il cane non ci va sopra con il naso all'istante, quindi cani predatori, cani molto impulsivi, cani super esplorativi sono a massimo rischio rispetto a quelli che sono un po' più prudenti, un po' più tranquilli, no? Che se ne stanno un po' così, un po' vicino al proprietario, quelli sono meno a rischio certamente, perché tu fai hai più tempo per accorgerti che c'è la vipera, girare al largo. Di per sé la vipera non ti segue di sicuro. No, vabbè. Senti, allora diciamo che per quanto riguarda pulci, zecche, filari e lesmania ci sono le appositi pipette piuttosto che i collari. Tu Barbara poi hai spiegato bene quando va usato il collare, in che condizioni e quando non. E ovviamente la lesmania è una malattia più facile, no scusami, la filare è una malattia più facile sia da gestire come profilassi in modo che non ti ammali, sia eventualmente anche dopo, mentre la lesmania è un pochino più complicato. Di base c'è che se a tutte questa profilassi si aggiunge anche, come per esempio faccio io, che gli spruzzo quando sono in zone dove ci sono molte zanzare, il repellente per le punture di zanzare che usano per i bambini, io tendenzialmente uso quelli naturali, aiuta ancora di più, giusto? Bene. Tutto lo sforzo che mettiamo per tenere gli insetti lontani dai cani è ben riposto. Perfetto. Senti Barbara, grazie, come al solito sei stata il nostro veterinario di riferimento, di fiducia, anche non solo comportamentalista ma anche vedi. Esatto, grazie mille. Grazie Barbara, buona giornata. Buona domenica, ciao. Hai sentito, amore, che la vipera è introversa. Tutte le femmine. È timida e introversa. La vipera, capito, non se ne va al bar con gli amici a bere, scherzare, ridere. È lì che aspetta e è asociale. Insomma, ecco, io potrei fare un programma che si intitola La vipera. Ecco, la zanzara, la vipera. Poi ci manca l'orso e siamo a posto. L'orso. L'orso è uno che praticamente non parla, viene in radio e fa silenzio. Ogni tanto fa, dai, forza, dai, facciamo così, basta. Io non lo vedo parlare così l'orso, povero, gli sento una voce molto bella, tipo quella di, non so, di Clark Gable. Sì, certo. Allora, io vorrei, adesso poi... Io vorrei dirti, ho letto le mail, come leggo spesso le nostre mail, anzi vi ricordo l'indirizzo, se volete scriverci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Perché vi voglio parlare adesso di una mail che ci è arrivata da Antonella Mascio, perché dai, ma che insopportabile che stamattina. Ho capito, ma cioè voglio tirare su un po' il tono di questa trasmissione. Guarda che tremendo. Ma io sono tremendo, ma senti chi parla, cioè una volta che ci siamo scambiati i ruoli, oggi tutto sto casino perché... Ma io so rompere i maroni nel modo giusto, capisci? Devo imparare, va bene. Ecco, se non faccio esperienza come imparo? Sbagliando si impara. C'è un programma in questa radio dove si impara molto bene, sai? Sì, a rompere maroni, le palle. Esatto. Se vuoi fare un tirocinio lì. No, allora, no, perché poi stiamo parlando di cose serie. Quando fa lui il professorino, allora, Rosita, ma appunto ci vuole un bilanciamento. Quando uno è serio, l'altro un po'. Ma il bacchettone sei tu, quella simpatica sono io. Perché vuoi il mio ruolo adesso? A me non mi viene perché la bacchettone. No, ti sta venendo perfettamente oggi, te lo dico. Guarda un po'. Un po'. Vabbè, allora, comunque. Stavo dicendo. No, sentiamo cosa avevi da dire, sentiamo. Chi è che lo vuole questa domenica? Ve lo spedisco, Vaira. Così ci fate la domenica assieme, in mezzo alle vipere, questa alle domenica zanzare. Tengo un corso, come te lo devo dire io? Comunque, stavo parlando, purtroppo, volevo parlarvi di veleno oltre il veleno per topi, il veleno per lumache, perché ci sono zone in Italia dove se ne fanno eccessivo uso. Allora, fra poco sentirete una telefonata fra un avvocato, l'avvocato Susanna Chiesa, e Antonella Mascio, che ci ha appunto detto che in una zona d'Italia, purtroppo vicino a Chieti, poi ci spiegherà bene lei dove, qualche stronzo, che stronzo è un complimento, ha deciso di spargere polpette avvelenate con il veleno di lumache, ma non lanciarle così nei parchi, metterle proprio scientificamente nei giardini privati dove ci sono dei cani. Sono stati salvati 4-5 cani, un pincher purtroppo è morto. E con l'avvocato chiederemo che cosa si può fare a queste persone, perché ci sarà una pena per questi merdoni, si può dire? Sì, adesso ti arriva la denuncia della... Chi se ne frega? Ah, beh, facesse la denuncia, almeno scopro chi è il merdone. No, ma scherzo, dai, no, non so. Comunque no, allora adesso subito dopo la pausa parleremo di questo, telefoneremo a un avvocato che ci spiegherà legalmente che cosa si può fare quando ci sono questi indescrivibili persone. Penso che se ne becco uno io. Cioè, se tu vedi uno che sta posizionando una polpetta, se lo becco io avvelenata. Sai dove la metto la polpetta? In bocca. No. Vabbè. No, allora fammi dove? Sentiamo dove. Pausa e poi ci dici dove Rosita Centano mette la polpetta. State ascoltando un programma offerto da Protection Line di Camon all'olio di neem, l'aiuto naturale contro i parassiti del cane. Camon.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E a proposito di prospettiva animale, cosa penseranno i cani che sono avvelenati? Oppure quelle persone che hanno tranquillamente il cane in giardino e che gli lanciano lì una polpetta avvelenata? Ma cosa penseranno pure le lumache che le stanno avvelenando? E vorrei capire cos'è sta moda di avvelenare le lumache. Comunque, come vi dicevo prima, abbiamo in linea l'avvocato Susanna Chiesa. Susanna, ci sei? Eccoci, sono. Nonché presidente dell'associazione no profit Freccia 45 e Antonella Mascio, che ci ha scritto una mail. Antonella, ci sei? Sì, sì, ci sono, eccomi. Che ci ha scritto una mail qualche giorno fa, appunto per denunciare questo problema. Dunque, in che zona sei tu? Dov'è che è successo che hanno avvelenato nei giardini privati, quindi non nei parchi con delle polpette piene di veleno per lumache? Sì, sì, nei giardini privati. È Tollo, un paesino in provincia di Chieti. Ok, quindi io al volo prima ho sintetizzato, ho detto dunque che state cercando di capire chi ha messo queste polpette avvelenate nei giardini dove c'erano cani di proprietà privata. Esatto. Siete riusciti a salvarne quattro, però purtroppo uno, quello più piccolino, è morto. Sì, purtroppo sì, uno è morto, sì. Senti, sì, allora io la cosa che volevamo capire parlando con te l'altro giorno, ecco perché ho voluto che ci fosse una persona competente come Susanna, sì, è capire... Si può fare qualcosa legalmente quando poi si capisce chi è che ha messo queste polpette avvelenate, o la passano così con una pacca sulla spalla, un buffetto e si ritorna a casa? Allora, un'informazione generale, faccio parte io del team giuridico di Freccia 45, siamo in 5, diamo assistenza gratuita a tutti i volontari che ne abbiano necessità, quindi per qualsiasi quesito mandateci una mail a info@freccia45.org, ecco. Anche sulle esche e bocconi avvelenati, che è un problema gravissimo. La legge di riferimento è un'ordinanza che è stata emessa dal Ministero della Salute. È un'ordinanza molto specifica che addirittura ha allegato già tutti i modelli di predisposizione per le segnalazioni. Che sarebbe? Cosa vuol dire? Significa che innanzitutto cosa sono le esche avvelenate o i bocconi avvelenati? Il Ministero identifica qualsiasi veleno o sostanza tossica abbandonata nell'ambiente che può creare un danno a chi? Alle persone, al patrimonio faunistico, quindi alle specie, non solo animali domestici ma anche quelle selvatiche, ai bambini, all'ambiente. Ma quindi anche un banale detersivo? Sì, qualsiasi sostanza. Vedi, figurati il lumachicida. Esatto. Ma, scusami, ma com'è possibile che però il lumachicida si può comprare dovunque? Dove si può comprare il lumachicida, Antonella? Di veleno si può comprare ovunque, perché adesso hanno messo sulla confezione che il veleno è da giardino e quindi in alcuni casi non serve più il patentino, quindi figurati. Posso andare anch'io nei supermercati e comprare il veleno per le lumache senza niente, insomma. Ma cioè, scusami, come al solito ci sono delle contraddizioni, no? Cioè, ti fa... No, non sono contraddizioni, noi possiamo acquisire tantissime sostanze tossiche, il problema è come le utilizziamo. Quindi, siccome questa sostanza tossica è stata utilizzata con il fine di creare un danno al patrimonio faunistico, in questo caso si tratta, mi sembra aver capito, di lumache, cani, di animali domestici. Cani di proprietà, no, sì. Ah, scusami, cani di proprietà. Sì. Ok, allora c'è una procedura molto semplice. Il proprietario o il responsabile dell'animale quindi anche chi ha in custodia, si reca dal veterinario, segnala l'episodio. Il veterinario è lui che deve fare e deve avviare tutta la procedura per la segnalazione del sospetto avvelenamento. Quindi cosa fa? Accerta effettivamente che ci sia l'avvelenamento e lo può fare trasmettendo un referto o, nel caso in cui ci sia purtroppo, come credo aver capito, un animale morto, lui lo invia all'istituto zooprofilattico. L'istituto zooprofilattico è l'istituto competente per accertare questo genere di problemi. Il ministero ha messo a disposizione, lo potete trovare online, già tutta la modulistica, quindi il veterinario chi avvisa? Il comune, l'ASL e l'istituto zooprofilattico e le autorità, quindi la procura della Repubblica. Il comune si muove immediatamente, da noi a Lecco si muovono entro 24-48 ore, quindi velocissimi, accertano l'avvelenamento e trasmettono i dati alla procura. Però, voglio dire, se non si riesce a beccare chi ha messo queste polpette, rimane una denuncia così a ignoti? Allora, sì, si raccolgono le polpette e si attua la stessa identica procedura, non con l'animale che o il referto veterinario avvelenato o morto o insomma che è stato male, ma con la polpetta effettiva. Il comune si reca poi sul luogo e cerca di comprendere, interrogando anche i vicini, mettendo delle telecamere. Chi ha comprato? Facendo un'indagine proprio? Sì, facendo un'indagine, si apre un'indagine. È una procedura semplicissima. Io consiglio tutti i volontari di supervisionarla. Cioè di andare a chiedere al comune cosa state facendo, sì, di seguire che facciano quello che devono fare, perché sennò ti dicono che lo fanno e poi non fanno nulla. Sì, possono avviarla i veterinari, possono anche avviarla le associazioni, possono avviarla i singoli volontari. Questa modulistica dove si trova? Allora, la potete trovare online sulla Gazzetta Ufficiale. I riferimenti normativi sono questi: ordinanza del 13 giugno 2016, l'ordinanza è stata pubblicata alla numero 165 del 16 luglio 2016, norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Benissimo. Okay. Antonella, hai seguito tutto? Per chi non avesse preso appunti, ricordo, potete andare sul sito di Radio 24 a scaricarvi il podcast, così da riascoltare quello che ha appena detto, perché magari uno in macchina non può scrivere. Antonella, tu hai sentito bene quello che ha detto Susanna? Sì, assolutamente. L'altra... La procedura l'abbiamo comunque attivata, insomma, perché bene o male io personalmente la conosco e in alcuni casi mi chiamano anche per quello, molte persone che si trovano in difficoltà su questo, insomma, su questo modo di avvelenare, cioè, insomma, parliamoci chiaro. Senti Susanna, ti volevo chiedere un'altra cosa: nel momento in cui si becca il colpevole, che pena può avere? Allora, viene inviato tutta la modulistica alla Procura della Repubblica, appunto per avviare il procedimento penale. Allora, il procedimento penale dobbiamo capire se è di uccisione animale o maltrattamento animale. Dobbiamo capire se effettivamente ne è derivata la morte dell'animale o non è derivata la morte dell'animale. Ma se non è derivata, non è derivata per culo, nel senso che riusciamo a salvarlo per un pelo. Comunque l'animale non è stato bene, magari può avere delle conseguenze. Vabbè, comunque io e Susanna stiamo lavorando per tutti gli esseri viventi. vero. Esatto, io stimo molto Susanna Chiesa e ultimamente ci stiamo confrontando tanto per capire come possiamo fare perché le leggi sulla tutela e sul rispetto dei diritti degli animali vengano proprio rispettate, laddove le leggi in Italia, grazie a Dio, già ci sono, ma non vengono attuate, e magari capire dove si possono migliorare. Senti Susanna, ti ringrazio tanto, ci vediamo presto, nulla. Sei stata come al solito perfetta, chiarissima. E Antonella, tu mi hai detto che hai capito tutto, per qualunque cosa teneteci al corrente. Grazie mille. A voi, a presto. Ciao, grazie. Ciao Susanna. E quindi, come è capitato questa volta, insomma, quando avete vi capitano cose del genere, segnalateci, perché magari possiamo fare anche un'indagine. A me piacerebbe, per esempio, capire se adesso si avviano le cose lì e che cosa fa il comune. Piacerebbe. Io chiamerei il sindaco o qualche assessore per dire: allora a che punto siete? No? Perché è inaccettabile. Antonella ha detto: abbiamo il numero di Antonella. Cioè, una persona che mette le polpette avvelenate di lumachicide per uccidere i cani nelle case è uno psicopatico. questo qua va curato, va preso, certo. E va curato, se non rinchiuso, no, e buttata. Anche perché sai, se c'è un bambino di 2 o 3 anni che gioca nel suo giardino e vede una, i bambini si mettono in bocca tutto e mette in bocca, capito, è dannoso anche per la persona. Certo, certo. È un pericolo pubblico. Solo che sai, fino a che il pericolo non è per noi esseri umani, per gli animali uno dice vabbè, è morto un cane, sarà mai. Sì, vabbè. Boh. E adesso abbiamo Gian Domenico Palieri, che è presidente di Pet Festival, che è un, che si svolge a Piacenza Expo il 21 e il 22 ottobre, in occasione appunto di, hanno chiamato questa manifestazione Pet Festival 2017, dove è coinvolta anche Casa Bau Onlus. Gian Domenico, ci sei? Eccomi qua, Gian Domenico per gli amici e i cani Mimmo, quindi... Chi cani ti chiamano Mimmo? Senti Mimmo, com'è che ti è nata, qualcosa è nata 4-5 anni fa questa idea di questo, allora, Pet Festival? Sì, Pet Festival è nato 5 anni fa, per l'esattezza siamo alla 5ª edizione. In realtà noi siamo dei bambini con i pantaloni che sono cresciuti, ma ci piacevano gli animali da piccoli, portavamo a casa i cuccioli di cane e di gatto, continuiamo a farlo adesso con i pantaloni lunghi. Ma alla fine Pet Festival che cos'è, di che cosa si tratta? Allora, i numeri dicono che è la più grande manifestazione all pet d'Italia, cioè con la presenza di animali vivi. Wow. Infatti, perché l'anno scorso, 4ª edizione, siamo andati a finire quasi sulle 30.000 persone che sono entrate nei 2 giorni. Mm-hmm. In realtà è la più grande festa di animali e aziende del settore e dimostrazioni, spettacoli, chi più ne ha più ne metta, che si svolge attualmente in Italia. Era nata come una occasione fatta da noi, perché siamo tutti appassionati di animali, chi con i cani, chi con gli acquari, chi i pappagalli e via dicendo. Doveva essere una cosa della serie, ma sì, dai, proviamo, facciamo una cosa carina che piaccia, dove gli animali stiano bene. È diventata il più grosso evento pet d'Italia e siamo alla 5ª edizione, abbiamo esaurito il quartiere fieristico, abbiamo raggiunto terzo tutto. Sì, anche perché per me non è un'attività, cioè non è la mia attività madre, io sono in tutt'altro settore, e invece oramai ci ha coinvolti anima e corpo praticamente da un'edizione all'altra, peraltro con grossissima soddisfazione, grosso piacere. Senti, quindi che cosa si prefigge di fare questa manifestazione? Qual è lo scopo principale? Noi siamo nati appunto cinque anni fa con un motto, un karma, al quale siamo non solo affezionatissimi ma del quale siamo gelosissimi, che dice: insegna ad un bambino a prendersi cura di un animale e avrai piantato il seme per una migliore umanità. Bello. Mica balle. Sì, sosteniamo anche noi. No, è perché? Perché in realtà è la verità, cioè i bambini sono gli adulti di domani, dovranno difendere l'ambiente e l'animale. Il karma è stato recepito nel Pet Festival, tutti gli anni si recano famiglie per cane al seguito, perché possono entrare ovviamente tutti i pet, e vengono a visitare i padiglioni che sono ripartiti fra acquariologia, 6.000 metri, dolce, marino, coralli, cani altrettanto, gatti, chi più ne ha più ne metta, piccoli animali da compagnia, quindi da furetti, coniglietti, i coniglietti nani. Quest'anno abbiamo un padiglione completamente dedicato al country, che è di fianco a quello dei cavalli, dove ci saranno degli spettacoli equestri, rettili, che non sono solo quelli che strisciano, ma sono anche quelli che camminano. I camaleoni. Terribile. Sì, no, ci sono degli animali, ti devo dire una cosa però, ci sono degli animali che sarebbe tipo i rettili o come magari i furetti così, che sarebbe meglio che invece che vivessero in casa dentro le gabbiette stessero più, non so, magari nel loro habitat personale, no? Ma il furetto in realtà, tanto perché ne hai citato uno, il furetto che da noi viene rappresentato da una delle maggiori associazioni in Italia, se non la maggiore, il furetto convive con la famiglia, cioè è uno di non famiglia. Non sta in gabbia. No, tra l'altro è un animale simpaticissimo e un po' carogna, perché dorme 20 ore al giorno e le 4 che si sveglia gira tipo Fittipaldi su tutti i muri di casa, cioè si scaglia come un... poi di colpo tac, si scaricano le pile, catatonico, e dorme. Quindi è un animale un po' tipo me il furetto, capisci? Che io dormo 20 ore al giorno, ce ne ho 4 di per... I rettili, ad esempio, guarda, i rettili, io sono un appassionato di camaleonti, li devi pensare in un ambito che stiano veramente a loro agio, non la gabbietta con il grazie, però quanta ho capito, ma tu magari sei già più predisposto e hai anche le possibilità, ma quanta gente invece li piglia, li mette in una gabbia? Io inviterei a valutare la cosa come un po' l'amore per i cani, no? Per gli animali. Uno dice, non so, amo, che so, il canarino, lo prendo e lo metto in gabbia. E quindi sì, la riflessione che io faccio, già il fatto che lui dica no, nella gabbietta no, già mi piace, però ecco, la riflessione è questa: etologicamente l'animale, per essere felice, e quindi amandolo, io lo voglio vedere felice, ha bisogno del suo habitat naturale, di spostarsi. O il più possibile naturale, assolutamente d'accordo. E approfondiremo in un altro momento. Devo dirti che passa l'amore che hai per gli animali, per cui tra la tua simpatia e questa energia che trasmette, diciamo che sulla fiducia e Rosita, appoggiamo questo Pet Festival e vi auguriamo... Poi io spero in un finale pazzesco dove si liberano gli uccellini e ognuno va per la sua strada dai nel falchi. Bosco. Dai, dai. Senti, grazie Mimmo e alla prossima allora, chissà che magari non passiamo di lì. Grazie. Siete tutti in attesa di voi. Ciao. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo tra poco. Ferkam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Ferkam.com vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Ed eccoci al nostro consueto appuntamento con la cucina che fa bene sia noi che i nostri animali. Aspetta, mandiamo la sigla prima, mandiamo. Piatti e ciotole. Ci sei incartato il virus. Dicevo con Mara di Noia. Ciao Mara. Buongiorno. Ciao Mara, ci abbiamo tanta fame. Anch'io beh, tanta si è fame. Fatta una certa, come si dice, insomma anche i nostri ascoltatori gli si sarà fatta una certa pure a loro, avranno fame pure loro. Cosa ci consigli oggi, cara la nostra Mara? Allora, vi consiglio polpette di spinaci e tofu fermentato. Oddio, il tofu a me non mi fa impazzire, mi ricorda il formaggio, a me il formaggio non mi piace. Ma il tofu fermentato è diverso, ora vi racconto. Vai. Vi servono 300 grammi di spinaci, 250 grammi di tofu fermentato naturale, 4 cucchiai di pangrattato, 4 cucchiai di lievito alimentare in scaglie, mezzo cucchiaino di noce moscata, un cucchiaino di salsa di soia senza glutine che si chiama tamari, e un pizzico di sale, ma proprio poco. Uh-huh. Allora, cosa dobbiamo fare? Scottare gli spinaci e il tofu per alcuni minuti in acqua salata e scolarli bene. Poi li tritiamo con un frullatore a immersione aggiungendo il pangrattato, il lievito, la noce moscata e la salsa di soia. Aspetta senza un attimo, glutine. Che cos'è il frullatore a immersione? Ma il mini pimer! Sì, esatto, è il classico... Quello col classico, bastone, quello che, qualcosa sì, quello che... Quello che abbiamo tutti in casa, perché non oddio, occorre... io non ce l'ho, Mara. Manco io ce l'ho. Allora, se non ce l'hai, non succede niente. Puoi usare il frullatore, no? Tutto ciò con la... No, puoi fare ancora una cosa più semplice. Schiacciare tutto con una forchetta. Tagliare con il coltello gli spinaci e schiacciare il tofu con la forchetta, perché è un prodotto morbido. Ah, okay. Quindi rimarrà semplicemente più granuloso l'impasto. Oh, cioè, grazie. A chi piace di più, granuloso, peraltro. Mm. Quindi... Quindi ci praticamente procuriamo una ciotolina con dell'acqua fredda in modo tale da formare le polpette. Io non sapevo prima di frequentare dei corsi di cucina che se si fanno le polpette con le mani asciutte non riescono. Si appiccica. E quindi, si appiccica tutto. Quindi ci bagniamo bene le mani, facciamo queste polpette e poi rotoliamo le polpettine che andremo un po' a schiacciare nel pangrattato. Che buono. Possiamo anche girarle nella farina di mais e avranno un aspetto più rustico, quindi anche gradevole come... giusto ecco, rustico sì. Non è male dal proprio più rustico. Senso esatto e possiamo cuocere in forno queste polpette per 30 minuti a 180 gradi. Possiamo come al solito impiattare per il piatto umano con un contorno di riso bianco, ad esempio profumato. Per i nostri animali aspettiamo che si raffreddino le crocchette, le tagliamo grossolanamente e possiamo aggiungerlo ai soliti fiocchi di riso o ad altri fiocchi che abbiamo in casa. La particolarità di questo tofu fermentato è che è una novità per il mercato italiano, non per il mercato estero, ma è ricchissimo di vitamina del gruppo B. Ah. Sempre per il discorso che magari se così cambiamo modo di mangiare, anche i medici ci dicono e sgranano un po' gli occhi dicendo ma come fai con la vitamina B12? Con un po' di accorgimenti, quindi facendo attenzione alle ricette che proponiamo e agli ingredienti che utilizziamo, possiamo stare molto sereni, dosare la vitamina B12 quella volta all'anno come normalmente si dovrebbe fare, e continuare con la nostra alimentazione a base vegetale, ricordando che ci sono gruppi di alimenti che contengono maggiore quantità di vitamina del gruppo B, ad esempio i prodotti fermentati. Poi, come dico sempre, i prodotti fermentati di origine occidentale, quelli che noi siamo più abituati a avere sulle nostre tavole, sono ad esempio le olive, no? Diciamo spesso, no? Cioè le olive hanno la vitamina B12? Sì, perché essendo un alimento fermentato, e allora la salamoia sto a posto. Aumenta anche di 500 volte l'apporto nutrizionale di sali minerali e di vitamine. Wow. Le fermentazioni sono fatte ad opera di batteri, quindi nelle fermentazioni le popolazioni batteriche producono tantissimi sali minerali e vitamine. Quindi scusami, io che sono golosissima di olive, adoro, cioè nella nostra tavola, soprattutto mio padre, per mio papà a tavola non deve mai mancare. Che una volta, cosa, come si dice, Chiambretti fece una battuta: il pane, il vino, e Chiambretti mi disse: è perché si sente Gesù Cristo. E le olive, che comunque il giardino degli olivi gira e gira, sempre lì stiamo. Però volevo dire, a parte gli scherzi, a tavola, io sono cresciuta così: acqua, vabbè, ovviamente noi bambini acqua, vino, pane e olive non devono mai mancare. Quindi le olive sono cariche di vitamina B12? Sono cariche di tantissime cose, di acidi grassi, quindi di grassi buoni che abbassano il nostro colesterolo. Fantastico. E che nutrono le nostre cellule con grassi di buona qualità che sono insaturi, quindi quei grassi che non formeranno mai delle placche nei nostri vasi sanguigni. Qualunque tipo di oliva, quelle dolci, qualunque quelle piccanti, quelle oliva aromatizzate, quelle piccole, quelle taggiate. Boh, fantastico. Le olive fanno bene, per questo anche i nostri amici animali. Certo, fanno bene per questo motivo. Vanno tagliuzzate, cioè a parte il nocciolo, ovviamente. A parte il nocciolo, no? Certo. Ma poi... vedi un po' tu, nel senso, dipende un po' dalla taglia, un po' dal carattere, ma normalmente non no, hanno sai questa... cosa? Ho sempre questa fisima, non mi ricordo da dove l'ho appresa, di sì, grattugiare ciò che è verdura per renderlo più facilmente digeribile. Quindi in realtà le olive non hanno queste grandi fibre, quindi... No, però scusami, per i cani, adesso non so per i gatti... Sì. È vero che i legumi andrebbero tritati perché la buccia se li mangiano così interi? Dipende da quanto, come per l'uomo, da quanto sono abituati a mangiare legumi. In alcuni cani soprattutto, così come in alcune persone, introducendo i legumi dopo tanto tempo che non si mangiano o magari che non li hanno mai mangiati, e questo ahimè ora succede ad esempio con bambini che non hanno mai mangiato una lenticchia nella vita loro, bisogna passarli più che tritarli in modo tale da rendergli una crema, sbucciarli per quanto è possibile e poi passarli in crema. Non ti mettere in castigo li devi dire. Una volta si diceva: adesso ti metto a sbucciare le patate, mo adesso ti dico: mo ti metto a sbucciare le lenticchie. Se no, non fai il bravo. Voi ceci che hanno una buccia abbastanza importante e andrebbero sbucciati. Io per esempio non lo faccio perché sono abituata a mangiarli. La buccia è difficile da digerire anche per altri elementi nutrizionali che contiene, che però durante la cottura vengono inattivati. Quindi l'importante è sempre cuocere molto bene i legumi. A me piacciono al dente, figurati. Bisognerebbe cuocerli molto bene. Porca se mia. Poi non si è abituati a mangiarli, magari le prime volte, o utilizzare dei legumi decorticati, oppure passarli. Scusami Mara, perché lo fa? Perché l'effetto è quello. Perché, no, perché tutti dicono: io non mangio legumi che mi gonfia la pancia. Della serie uno fa delle puzzette, si può dire, no? Sì, di domenica pomeriggio. Però diceva il professor Berrino che questo effetto lo fanno a chi li mangia una volta ogni tanto. Se tu tutti i giorni mangi sempre un po' di legumi e cereali assieme, intanto ti fanno la stessa proteina composta degli animali. Ma pare che ci sia anche e poi non hai più l'aerofagia, quella di cui soffre Angelo. Non ce l'hai. Se mangi le lenticchie ovviamente il 31 di dicembre e il 1 di gennaio avrai l'aerofagia. Vai a scoppio, cammini con un motoresco. Se li mangi due volte alla settimana, la flora microbica si abitua. Grazie a Dio si abitua. C'è la gente che si sta facendo grasse risate con questa cosa. Sì, perché le puzze fanno sempre molto ridere. No, io so che invece c'è quella schiuma che praticamente gli legumi fanno, che andrebbe eliminata. È quella andrebbe che poi... eliminata in cottura, fanno come i sudamericani. italiani che hanno una cultura sui legumi che noi ce la sogniamo, quando cuociono i legumi buttano tutta questa schiuma che si forma piena di queste sostanze antinutrizionali. Si è dice. Vero? Ecco, è vero. Ma che sì, è nell'acqua, quindi la devi togliere con una spatolina? Sì, esatto. Noi togliamo, allora, innanzitutto i legumi vanno messi a bagno almeno 8 ore in acqua pulita, cambiandola 3 volte. Quindi indicativamente. Sì, 2 volte. Vabbè, e poi si toglie la schiuma, sì. Peraltro voglio ricordare che il World Guinness Record del cane più longevo al mondo è di un border collie, mi sembra di 21 anni, la cui alimentazione prevalente era il riso e lenticchie. E con noi. Questo ragazzi, grazie Mara, ci vediamo domenica prossima, un abbraccio grande e via col motore a scoppio. Grazie a voi, buona domenica. Ciao Mara. Buona domenica. Ciao. Buona domenica.